Focus Economia. Speciale Expo 2015 di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata come già la nostra sigla e per chi ha ascoltato oggi Radio 24, tutta la programmazione sostanzialmente di Radio 24 è dedicata all'Expo. Purtroppo, e qui vengo la nota dolente, dobbiamo occuparci dei soliti teppisti, perché altre teppisti forse è anche troppo buona, altre definizioni non ci sono. Manifestare è un diritto e fa bene chi manifesta se è in disaccordo con i temi dell'Expo, distruggere le automobili di privati cittadini, le vetrine e quant'altro è diciamo sostanzialmente da teppisti, anche un po' vigliacchi, e non si capisce quale sia, se non la voglia di appunto essere violenti, quale sia l'obiettivo finale. Lo dico perché le immagini che le televisioni stanno trasmettendo sono di una situazione molto, quelle di una situazione molto difficile in alcune zone, tra l'altro vicino dove ci troviamo noi qui a Milano, Sole 24 Ore, in via Monterosa, zona via Pagano, zona Cadorna, per chi conosce la città, situazione molto difficile dove c'è la metropolitana e la stazione di Cadorna. Per, tra l'altro, questo va a rovinare una giornata, lo dico per esperienza diretta, oltre che per il racconto che ne ha fatto Radio 24, dove tutto, al di là forse del tempo, anzi del tempo sicuramente, oggi ha funzionato. Per esperienza diretta l'Expo obiettivamente si è presentato meglio di quanto uno si potesse attendere. Alcuni padiglioni non sono ancora aperti di alcuni paesi, penso all'Ungheria, ad altri padiglioni, la Commissione Europea aprirà fra una settimana, ma la stragrande maggioranza dei padiglioni sono aperti. L'immagine dell'Expo, per l'esperienza che abbiamo avuto oggi, è più positiva rispetto delle attese, nel senso che la fruibilità è molto intuitiva, questi due grandi assi che si incrociano, il Cardo e il Decumano, molto facile orientarsi, bella la presenza anche delle delegazioni estere per oggi e obiettivamente bello anche, nonostante, ripeto, il tempo, quello che è la prospettiva che offrono i vari padiglioni anche da un punto di vista architettonico. Dal punto di vista organizzativo e logistico abbiamo voluto tutti i colleghi del 24 utilizzare i mezzi per vedere e verificare se funzionano. Devo dire che funzionano sia treni che metropolitana. Molto bella la stazione di accoglienza all'Expo, sia per i treni a alta velocità che per quelli regionali che per la linea di metropolitana. Nessun problema organizzativo, non abbiamo notato in nessun momento della giornata code particolari, e oggi era obiettivamente la giornata più critica, nel senso che era la giornata in cui arrivavano, oltre che le delegazioni istituzionali, si apriva e si inaugurava ufficialmente l'Expo con tutti i dubbi e gli eventuali intoppi del caso. Non ve ne sono stati molti, lo dico perché sapete che siamo stati scettici anche sui tempi di consegna dell'Expo, però tutto questo rischia di essere rovinato dalle molotov, dalle bombe carta di questi teppisti che, con il pretesto di protestare contro non si sa bene che cosa, stanno sfasciando intere parti della città di Milano. Dico non si sa bene, non si sa che cosa, perché obiettivamente qualunque sia il motivo di contestazione verso l'Expo, che a me sembra avere un tema, poi vedremo come verrà declinato, un po' lo faremo anche in questa puntata, un tema che più diciamo vicino alle istanze di alcuni dei no global non può essere, cioè to feed the planet in maniera sostenibile, sfamare il pianeta in maniera sostenibile porta con sé tutte le tematiche dello sviluppo equo e sostenibile, dell'attenzione ad aree paesi in via di sviluppo e evitando le monoculture, la schiavitù della monocultura, di uno sviluppo sostenibile con un invito che è arrivato oggi anche da Papa Francesco anche alle grandi multinazionali dell'alimentazione a attivare pratiche coerenti e pratiche rispettose dell'individuo. Per cui sono un Expo più dedicato, diciamo, ai temi che stanno a cuore ai no global non lo si poteva immaginare, e devo dire che appunto purtroppo è peccato per questa coda di violenza che stiamo testimoniando e sto guardando le immagini assieme a voi, e che fra circa mezz'ora tratteremo anche un aggiornamento con i nostri inviati sul posto, Raffaella Calandra da un lato e Simone Spezia dall'altro. Per quello che riguarda i temi di oggi, come già anticipavamo, parleremo di Expo, di sviluppo sostenibile, e a questo proposito, con buona pace anche di alcuni non global, cercheremo di capire se il tema dell'agricoltura sostenibile, che vuol dire agricoltura che non vada a sfruttare troppo territorio, ma anche un'agricoltura che non si riempia eccessivamente di pesticidi, perché poi è facile dire siamo pesticidi free o biologici se accanto hai un campo che lavora con i pesticidi, beh, se il tema degli OGM, non perché ci piacciono gli OGM, ma possa essere affrontato, visto che in alcune parti del pianeta si sostiene che attraverso gli OGM non solo vi è un minor ricorso ai pesticidi, questo è indubbio, e a tutti, diciamo, gli anticritogamici del caso, la chimica in agricoltura, ma si avrà anche la possibilità di sfamare maggiormente le popolazioni. Se vogliamo dirla con una battuta, visto che so già l'accusa quale potrebbe essere, ecco, le case americane che possiedono i brevetti dei semi OGM, sì, ci sono da un lato gli interessi delle grandi case di ricerca americane che possiedono i brevetti degli OGM, dall'altro, attenzione, ci sono anche gli interessi di chi produce la chimica per l'agricoltura, e sono grandi colossi tedeschi. Quindi attenzione a non vedere solo il bene da una parte e il male dall'altra, fermo restando che in agricoltura, a nostro avviso, si utilizzano per vari motivi, si sta utilizzando un numero sempre più intenso di pesticidi e comunque di chimica, che non so quanto meglio possa essere degli OGM. Allora, detto ciò, c'è qualcuno che dice ma come, qualcuno è quasi scontento che l'Expo oggi abbia funzionato, non capisco questi atteggiamenti un po' masochisti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, ho capito, alcuni li chiamano delinquenti, vabbè, delinquenti è sicuramente più corretto, e speriamo che paghino e non vengano, diciamo, in qualche modo così fatti rientrare nella logica di chi manifestava, di compagni che sbagliano, sono teppisti e delinquenti, e come tutti i teppisti e delinquenti sbagliano per definizione. Le altre notizie. Oggi chiaramente, oltre che dell'Expo, parleremo anche del primo di maggio, inteso come festa del lavoro che non c'è, nel senso che i dati di ieri sulla disoccupazione hanno segnalato un aumento, purtroppo, sia della disoccupazione che una diminuzione della occupazione. Ancora, per quello che riguarda il primo maggio, oggi è intervenuto in maniera molto netta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sui temi dell'Europa. E ha detto una cosa che modestamente da circa 4 anni ripetiamo anche noi, molto più modestamente, e cioè che l'Europa deve correggere la sua rotta anche a favore di una maggiore coesione, altrimenti e deve imboccare politiche orientate alla crescita, aggiungo io, quindi non solo tagli e tasse. L'Italia più sarà coesa, più aiuterà l'Europa a imboccare queste politiche. Poi ha continuato il Presidente della Repubblica, in occasione della cerimonia dei Cavalieri del Lavoro, il lavoro è la prima delle priorità, non ci scoraggiamo né ci rassegniamo. La nostra carta fondamentale indica un obiettivo che è anche un obbligo morale e civile: cercare costantemente di costruire le condizioni per allargare le basi del lavoro fino alla piena occupazione. Due parole, piena occupazione, che sembrano quasi archiviate. Dobbiamo invece tornare a pronunciare quelle parole, pronunciarle insieme, piena occupazione. Dobbiamo pronunciarle perché siano uno stimolo per tutti noi, per le pubbliche istituzioni, per il governo, per il Parlamento, per le diverse parti politiche, per gli imprenditori e per i sindacati, perché il lavoro divenga la prima delle priorità e sia chiara la nostra determinazione. Non ci rassegniamo e non ci scoraggiamo. Ancora, sempre il Presidente della Repubblica ha definito una ferita lacerante aperta il tema della disoccupazione, ha detto sul lavoro occorre che si trovino sforzi convergenti nel dialogo e impegni comuni. Guardare avanti dà un senso anche ai passi che siamo in grado di compiere oggi, ai risultati parziali, a quei dati che ogni settimana scorriamo con ansia e speranza, cercando di cogliere le tracce più incoraggianti. Se il lavoro è la priorità per le famiglie italiane, se il lavoro è alla base dello stesso edificio democratico, è inevitabile che esso susciti un animato confronto politico, con proposte anche contrastanti tra di loro. Questo è del resto il sale della democrazia. Ma se il lavoro è uno dei beni più preziosi di una comunità, su di esso bisogna anche sapere indirizzare sforzi convergenti e trovare nel confronto e nel dialogo impegni comuni. Ad esempio, gli incentivi fiscali per i nuovi contratti a tempo determinato e la riduzione del cuneo per redditi medio-bassi che Governo e Parlamento hanno realizzato erano in vario modo auspicati da un amplissimo arco di forze politiche. E sui temi del lavoro e della disoccupazione è chiaramente intervenuto oggi anche il ministro al lavoro Giuliano Poletti, il quale ha detto siamo in coda a una crisi molto forte, speriamo Poletti, ed è una fase delicata che ci dà alcuni numeri positivi ed altri negativi. In realtà dobbiamo tornare a ricordare al ministro Poletti che da questo punto di vista non ci sono ancora numeri positivi sul mercato del lavoro, al di là dei contratti che da tempo indeterminato sono diventati a tempo indeterminato, numeri di nuovi lavoratori non ci sono, anzi sono leggermente aumentati i disoccupati ieri e calati gli occupati. Poletti ha detto i contratti a tempo indeterminato erano circa il 40% a inizio 2015, erano già il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2014. In parte sono nuovi contratti, ossia contratti di altro tipo trasformati in tempo indeterminato. Sappiamo bene che per verificare l'esito complessivo di norme così incisive pochi mesi di attuazione non sono sufficienti, tuttavia si possono già registrare segnali che appaiono significativi. Infatti i contratti a tempo indeterminato attivati nei primi tre mesi del 2015 sono quasi il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2014. Oltre 100.000 di differenza. Si tratta in parte di nuovi contratti ed in parte di trasformazioni di altre tipologie contrattuali, ma indubbiamente comincia a registrarsi un'inversione di tendenza che consideriamo positiva. Purtroppo devo aggiornarvi, ma le immagini che stanno arrivando dalla manifestazione di questi teppisti sono anche peggiori, continuano a bruciare macchine nella zona, diciamo, tra Cadorna e Via Pagano a Milano. Comunque adesso faremo un nuovo collegamento, immagino, con Raffaella Calandra. Andiamo avanti con il resto delle notizie, purtroppo. E infatti vedo gli abitanti che insultano, perché la cosa più schifosa e vigliacca di questi personaggini che si mettono il cappuccio è che poi bruciano le macchine di normali cittadini magari questa macchina è frutto dei risparmi di una vita, comunque è un costo, capisci? Questi vengono, bruciano la macchina di un cittadino e pensano di aver fatto la rivoluzione, hanno solo rovinato la vita a chi tutti i giorni si sveglia per lavorare. Va bene, devo star zitto oggi, sennò diventa pesante la situazione. Andiamo avanti. Il segretario della CGIL Susanna Camusso: dal governo c'è solo propaganda, l'occupazione non si crea per decreto, basta dividere i lavoratori. Il numero uno della CISL Furlan dice, Anna Maria Furlan: la legge Fornero è la peggiore legge d'Europa, va rottamata, la peggiore legge sul lavoro d'Europa, va rottamata. E poi il leader della UIL Barbagallo ha detto: purtroppo per ora i dati sulla disoccupazione trovano solo conferme. Altro tema di oggi, quanto deciso sempre in tema di mercato del lavoro, in questo caso il mercato pensionistico, ieri dalla Corte costituzionale, la sentenza che ha bocciato il blocco delle pensioni sopra quelle che valgono tre volte la pensione media dell'INPS e che avevano avuto il blocco nell'adeguamento inflazionistico. Non ci sono ancora calcoli ufficiali, sembra comunque che questo vada a costare 5 miliardi o meno, andrà comunque a vanificare il famoso tesoretto di cui, come dicemmo, in maniera improvvida il governo si era vantato. Nel 2011, infatti, nel decreto Salva Italia, il governo Monti inserì una misura che riguardava le pensioni di importo mensile superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per il biennio 2012-2013 era sospeso il meccanismo che adegua queste pensioni al calcolo inflazionistico e quindi l'assegno pensionistico viene adeguato al costo della vita. Il blocco dell'indicizzazione ha toccato circa 6 milioni di persone che hanno una pensione superiore a 1.500 euro lordi. La quota maggiore è costituita dai pensionati che percepiscono tra i 1.500 e i 1.999, poi quella tra i 2.000 e i 3.000 euro. L'INPS dovrà ricalcolare tutti gli assegni liquidati. Il ministro Poletti ha detto la sentenza della Consulta va applicata. L'impatto sui conti pubblici va approfondito con il resto del governo. A effetto giorno, con il nostro Simone Spezia, è intervenuto oggi il presidente di Federmanager, Giorgio Ambrogioni, che Federmanager con Manager Italia ha assistito e sostenuto le spese legali per coloro i quali hanno fatto ricorso alla Consulta contro la norma sulla perequazione pensionistica, quella appunto bocciata. Sentiamo Ambrogioni. In ultimi 14 anni abbiamo avuto 5 blocchi di perequazione automatica delle pensioni medio-alte. Al quinto abbiamo reagito. Il governo Monti è stato temerario, perché la Corte nel 2010 si era già pronunciata e ha detto: attenzione, non potete continuare in questo modo bloccando l'adeguamento delle pensioni. Quindi lo sapevano. Noi non siamo egoisti, non siamo indifferenti a questo problema, però è anche vero che da tempo, diciamo, è ora di finirla di usare il sistema pensionistico come un bancomat per finanziare la spesa sociale o interventi pubblici. Che via d'uscita vede a tutto questo lei, visto che insomma fa parte anche di un'associazione che si occupa di tutelare gli interessi di un gruppo economico, per così dire, appunto i manager? Che via d'uscita vede? Noi pensiamo che a questo punto il governo dovrebbe tentare la via di una rateizzazione di medio e lungo periodo di quanto deve, e poi aprire un tavolo con noi su come rimettere mano, non soltanto con noi ovviamente, al sistema previdenziale se c'è bisogno. Secondo noi nel medio e lungo periodo il sistema è sostenibile. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, eccolo lì, sono macchine utilitarie, parcheggiate, magari da gente che oggi, nonostante fosse il primo maggio, voleva lavorare. Questo è il grande atto rivoluzionario di questi grandissimi leoni coraggiosi che si vestono di nero per lanciare una Molotov contro una macchina, una cosa che saprebbe fare anche un bambino, e che i bambini queste cose non le fanno, i teppisti delinquenti sì, bel coraggio ci vuole a dar fuoco alla macchina di chi magari la sta ancora pagando e comunque sicuramente non è il miliardario quello che sta lavorando in questo momento a Milano, non che uno dia fuoco alla macchina è miliardario, ma è proprio per dar il segno dell'idiozia demente di questi pazzi criminali che obiettivamente andrebbero trattati come tali, e va bene, col cavolo che va bene, però sono le immagini a cui stiamo assistendo in diretta. Allora, di questo parliamo tra un istante. Guardali lì con queste facce, tutti coraggiosi coi bastoni che si nascondono ben distanti dalla polizia, perché poi le botte fanno male, e sono lì però a bruciare le macchine. Ci vuole un bel coraggio a bruciare la macchina di uno che magari ti guarda dalla finestra, eh? Bel coraggio, bravi, bravi, coraggiosi, che gran vigliacconi. Allora, Raffaella Calandra in collegamento con noi, dove sei Raffaella? Sì, attimo, Sebastiano, mi trovo in questo momento in via Guido d'Arezzo, dove restano tutti i segni della battaglia che c'è stata fino a pochi istanti fa. Tutti gli antagonisti più duri hanno lasciato a terra le loro felpe nere, le mazze, le pietre, e evidentemente sono scappati prima che la polizia, che in questo momento è arrivata anche con il blindo, potesse cercare anche di identificarli. Lungo tutto il percorso ci sono, come dicevi, auto bruciate e c'è un fumo che avvolge completamente le strade qui della zona intorno a Piazza Conciliazione, per non parlare delle scritte No Expo, con le scritte anche firmate dai gruppi tedeschi che sono tra i più pericolosi, così come l'intelligence aveva previsto. Smash Expo è scritto in diverse scritte, vetrine spaccate lungo l'intero percorso, hanno indossato, come vi abbiamo raccontato, caschi, maschere antigas e martelletti frangivetro avevano nelle mani, e in questo momento è a Pagano che c'è la situazione più tesa, così come era stato previsto. Insomma, ci sono due barricate che sono una contro l'altra e non stiamo ancora capendo se il corteo, come era inizialmente previsto, stia defluendo o se invece si stia preparando un nuovo assalto, perché la loro tecnica è quella di uscire dal corteo, diciamo, definito, andare nelle strade laterali e con singole azioni violente, diciamo, in qualche modo confondere e aumentare i punti di scontro. Questo, va detto, è la frangia più violenta, quella dell'area antagonista, i neri per come sono vestiti, e devo dire è davvero suggestiva questa immagine di via d'Arezzo, dove ci sono a terra tutti i loro abiti, come la loro diciamo divisa di battaglia che hanno abbandonato a terra, mentre nulla a che vedere con il resto del corteo My Day, che è invece ben più lontano e sì, che era partito assolutamente oddio Raffa, pacifico. Divisa di battaglia è troppo per questi delinquenti, nel senso che loro la battaglia aspettami, perché la battaglia è in chi la sa anche affrontare, questi bruciano le macchine e scappano, ecco perché volevo dire che magari fossero coraggiosi, solo sono solo vigliacchi delinquenti, li vediamo adesso anche in azione. Detto ciò, questo contrasta molto, come raccontavi in apertura, con l'assoluto ordine, devo dire, se si può usare questa parola, efficienza, che abbiamo registrato questa mattina dalle 9 fino alle 16 all'Expo, sia nella gestione della manifestazione d'apertura che nella gestione complessiva della manifestazione, che nel deflusso abbiamo visto sia in metropolitana che fuori, in una situazione assolutamente tranquilla e normale. Speriamo non venga rovinata anche questo aspetto da quanto sta avvenendo. Raffaele, riprendi la linea quando vuoi, noi siamo in diretta come sempre fino alle 18.30. intanto grazie Raffaella Calandra. Meteo, pubblicità, poi se ce la facciamo iniziamo a parlare dei temi dell'alimentazione sostenibile, introducendo anche quello che sembra per molti un tabù, perché sono quelli che hanno già la verità rivelata, gli OGM. Allora, gli OGM cerchiamo di capire se si possono almeno entrare in un dibattito, oppure siamo tutti così contenti di tenerci i pesticidi, gli anticritogamici e tutta la chimica che regolarmente utilizziamo in agricoltura per frutta e verdura. Meteo. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia, su con Sustemium Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Focus Economia. Minuti. Allora, vediamo di raccontare questa giornata dell'Expo, per i temi seri dell'Expo, purtroppo di serio, come ricordavamo, ci sono anche le devastazioni che questi delinquenti stanno creando in alcune parti di Milano. Dicevo, tutto bene la manifestazione questa mattina, nessun problema organizzativo né di ordine pubblico questa mattina. L'apertura ufficiale l'ha dichiarata, come sempre in questi casi, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale, citando un inno di Mameli cantato da un coro di alpini e da dei bambini, che finiva in maniera insolita: l'Italia se desta siamo pronti alla vita, non alla morte, ha detto partiamo da qui per guardare al futuro e quello che l'Expo rappresenta. L'Italia se desta, siamo pronti alla vita. Sì, siamo pronti alla vita e siamo pronti a dire benvenuti. Benvenuti a tutte le autorità, benvenuti ai cittadini. Benvenuti a tutti coloro i quali in questi mesi vedranno una Milano particolare. ma innanzitutto il 1° maggio partiamo dicendo grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Eravamo qui e non ci credevano in tanti. Grazie al vostro sudore oggi l'Expo è una realtà. Non è ancora una scommessa vinta, abbiamo 6 mesi per vincerla, ma è una scommessa che possiamo fare. Dal lavoratore senza nome, così lo ha chiamato il Papa, alle persone che stanno fuori da qui a garantire la sicurezza, le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro straordinario, fino, lasciatemelo dire a te Beppe, grazie per il tuo lavoro, orgogliosi di ciò che hai fatto in questi mesi e che faremo nei prossimi 6. E poi l'invito del Presidente del Consiglio: basta piangersi addosso, siamo un grande paese. Questa di oggi, cioè l'inaugurazione dell'Expo, devo dire molto molto ultimato, è la miglior risposta ai professionisti del non ce la farete mai. L'Expo è innanzitutto il desiderio di guardare il mondo per com'è e provare a cambiarlo tutti insieme, partendo dal nostro piccolo impegno quotidiano, ma anche dalla consapevolezza che siamo un grande paese, che abbiamo una grande forza, che abbiamo un grande ruolo e che dobbiamo smettere di stare soltanto a piangerci addosso come vorrebbero alcuni professionisti del non ce la farete mai. Signori professionisti del non ce la faremo mai, questa è la vostra risposta, stamattina è la vostra risposta. Allora, poi Renzi, che ha continuato la politica, deve dichiarare guerra alla povertà. Questo è un tempo di opportunità. Il ministro Martina, che ha stimato in 100.000 persone il numero di persone presenti oggi per l'apertura dell'Expo, vedo una dichiarazione del sindaco di Milano: stanno devastando Milano, vanno puniti. Sì, ho capito, vanno puniti, però 2 giorni fa hanno arrestato 4 tedeschi che volevano montare una molotov, li hanno poi liberati. Allora vediamo di capire che cosa prevedono anche le nostre leggi. Voi non capite la pena, perché immagino che chi ascolta la radio in questo momento non stia guardando la televisione, nel vedere che queste macchine assolutamente utilitarie, normalmente parcheggiate da normalissimi cittadini, devastate, bruciate, non resta più nulla, da questi 4 banditi che non fanno nulla e meriterebbero di lavorare, almeno essere puniti con qualche pena non pecuniaria, ma insomma fargli lavorare in modo che la persona possa ricomprarsi la macchina. Ci sarà un modo per risarcire il danno subito? Allora, dicevamo di questo e anche di altre dichiarazioni, poi le racconteremo. Intanto ringrazio però il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, che è in collegamento con noi. Buonasera presidente. Buonasera. Mi dispiace, abbiamo dovuto slittare un po' i tempi perché, come ha sentito, ci sono stati pesanti incidenti in centro Milano con auto bruciate, tuttora continuano. Peccato, perché quella che abbiamo visto oggi, non so se d'accordo, è stata un bel esempio alla comunità internazionale di quello che l'Italia riesce a fare, con un po' di polemiche, con all'ultimo minuto, con quello che vuoi, però nonostante il tempo, la giornata di oggi è stata una giornata di cui l'Italia può andare orgogliosa, Guidi. È così, io oggi sono stato orgoglioso di essere italiano e orgoglioso di fare l'agricoltore e quindi fare un mestiere che è centrale nel futuro. Abbiamo dei problemi di collegamento, è centrale nel futuro anche perché tra poco vorrei di nuovo Raffaella Calandra, perché vorrei capire dove si sta dirigendo il corteo. Purtroppo dobbiamo darvi un aggiornamento, la puntata come immaginate sta leggermente saltando. Allora facciamo così, traffico, poi di nuovo Raffaella Calandra, se recuperiamo, e il presidente di Confagricoltura. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora abbiamo recuperato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, stava dicendo orgoglioso di essere italiano oggi e devo dire orgoglioso prego di essere agricoltore e di fare quindi un mestiere che è centrale nel futuro di questo pianeta ed è centrale anche nella nostra società, nella nostra economia. Oggi è stata una giornata di festa per tutti, peccato aver visto, come ho visto io, Milano trattata in questo modo. Sì, un vero peccato. Tra l'altro possiamo dire, adesso, ognuno può pensare come vuole, ma l'Expo, io non partivo scettico, diciamo agnostico, però è più bello ed è anche molto più intuitivo. Di Expo ne ho visto qualcuno per motivi di lavoro e spesso il problema è come nelle grandi fiere, la dispersione, i chilometri che devi attraversare. Il fatto di averlo costruito con due assi portanti, il decumano e il cardo, beh, lo rende anche molto intuitivo nella visita, o no? Sì, è così, è molto fruibile anche, direi, più di quello che io stesso mi aspettavo. Sì, più di tante fiere che sono più piccole dell'Expo, sì, posso dirla, certo, tutta. Certo. Allora, i temi dell'agricoltura, è chiaro che saranno al centro di questo Expo, non tanto e non solo per la carta di Milano, ma perché quando parliamo di to feed the planet, di sfamare il pianeta, beh, il pianeta lo sfami con l'agricoltura, con i derivati e chiaramente con l'allevamento. Tratterete il tema, così entro subito in polemica, degli OGM? Le spiego perché. Perché a mio avviso noi siamo sempre contro l'ipocrisia. Qui c'è un mondo un po' strano. Ci sono bambini che muoiono ogni anno per malnutrizione, sono 3 milioni di bambini ogni anno. Bambini che muoiono per avere mangiato un cibo OGM, zero. Allora io dico, aspettiamo un attimo, non riusciamo a sfamare il pianeta, però siamo molto schizzinosi quando parliamo di OGM. Io non sono pro OGM, lo dico chi mi sta già insultando, vorrei solo capire perché vedo da un lato il rischio dell'organismo geneticamente modificato, pur sapendo, per aver studiato, che tutte le piante vegetali si sono geneticamente modificate. Il mais che scopre Cristoforo Colombo in America era grande mezzo palmo di mano, quello che mangiamo adesso è geneticamente modificato. Ma detto ciò, non sono uno scienziato. Quello che so è che tutti sono contro gli OGM, per questo che mi puzza un po' il naso, mentre nessuno parla dei pesticidi, degli insetticidi. Nei paesi in cui gli OGM sono stati inseriti, la produzione è aumentata del 22%, l'uso di insetticidi del 37%. Ora, io non so se sia meglio mangiare una cosa OGM o mangiarsi una cosa con la chimica e i pesticidi sopra. Guidi, se ne può almeno parlare? Noi intendiamo parlarne, perché il messaggio che ha dato il Papa, che ha dato lo stesso Matteo Renzi, è un messaggio troppo importante di come affrontiamo il futuro di questo, anche dal punto di vista nutrizionale. È stato proprio un video che forse i radioascoltatori hanno potuto seguire, in cui si vede bene la differenza tra all'interno del mondo, con popolazioni che sono affamate e popolazioni che hanno un esubero. Occorre che noi forniamo in loco gli alimenti. L'errore fondamentale che noi abbiamo fatto, io credo, sia proprio di aver condannato la tecnologia con il prodotto della tecnologia, perché la tecnologia, ovvero l'ingegneria genetica, è l'unica forma di innovazione che ci consentirà di avere un livello di sostenibilità per questo pianeta a lungo periodo. D'altronde, se mi permetti, li mangiamo gli OGM da tantissimo tempo, sia negli Stati Uniti e anche in Italia, e quindi è un po' un paradosso che noi non li si possa coltivare, ma li si possa mangiare. Ora lo dico perché la Commissione Europea sta predisponendo un nuovo regolamento per autorizzare l'importazione di prodotti geneticamente modificati. La soluzione darà, da quella che si capisce, agli Stati membri il diritto di veto all'ingresso dei prodotti geneticamente modificati, cioè lo decide lo Stato. Una procedura molto simile a quella dell'autorizzazione delle coltivazioni. La Unione Europea le autorizza, poi il singolo Stato membro decide se vietarle oppure no. L'Italia ha promosso questa soluzione e pare intenzionata a vietare anche i prodotti oltre che la coltivazione. Comunque il rischio non c'è stato. La mangimistica nel nostro paese dipende per il 90% da prodotti geneticamente modificati, mais e soia in primis. Cioè, noi diamo ai maiali per il prosciutto di Parma e di San Daniele, alle mucche per il grana padano e per il parmigiano reggiano. Guidi, diamo prodotti spesso OGM, giusto? Sì, è così. No, nel senso, perché la follia è che non si possono coltivare, però le possono mangiare le mucche e i maiali, e poi mettiamo il DOP sul crudo, giustamente, e sul parmigiano reggiano. Prego. Ma in realtà è giusto così, perché questi cibi, che sono questi prodotti che sono stati autorizzati in altri paesi, non solo, che sono stati autorizzati dall'EFSA di Parma, quindi da un organismo che è sul suolo italiano, non sono perfettamente introducibili nella catena alimentare. Ora, se si deciderà di non poterli coltivare in Italia, a me, chiedo scusa, ma parrà altrettanto logico che non li si possa importare, altrimenti gli unici a subire i negativi sarebbero gli agricoltori. Ma mi scusi, quindi, ma se non li importiamo e non li coltiviamo, che mangiano i suini della Val Padana? Sono curioso. Ma sono infatti curiosi anche i suini e le vacche? Sì, credo di sì. Cioè, non, addio allevamenti italiani, poi il crudo, la chianina, il padano. No, chiedo. Sì, peraltro no, è una forzatura che noi faremo, ma noi sosterremo qualsiasi iniziativa se non potremo coltivarli e soprattutto se non potremo fare ricerca, che è quello che a noi interessa, soprattutto per quello che dirò fra poco. Vorremmo anche essere coerenti e che ci fosse un divieto di importazione, con tutti gli effetti conseguenti delle impossibilità, cioè si renderà evidente l'impossibilità di avere un prodotto che non ha questo tipo di attività. A noi poi siamo interessati a sviluppare la ricerca italiana. Ecco, perché su questo mi interessa molto, perché poi di OGM si parla sempre per il mais, la soia, ma per esempio le mele, io cito un esempio, le mele perché le cito? Perché sappiamo che sono quelle che hanno un altissimo utilizzo di chimica, di pesticidi, di insetticidi, no? E dico, uno può sperimentare anche una mela che possa resistere ad alcuni tipi di insetti senza riempire la buccia poi di prodotti potenzialmente cancerogeni. Mi dia la risposta dopo il traffico, però. Scusate, ho sbagliato io perché stavo guardando le immagini, il traffico non è adesso, è fra 10 minuti, mi dia la risposta adesso, Guidi. Pronti. Benissimo. Noi ce l'avevamo già la mela, diciamo così, che resisteva ad un patogeno molto importante ed era proprio licenziata dall'Università di Bologna, così come ci sono tante altre università in Italia che avevano studiato modi per difendere i prodotti made in Italy, come il San Martano, come la vite anche, attraverso l'ingegneria genetica. Questa è proprio l'idea che noi intendiamo portare all'Expo, ovvero la via italiana degli OGM, consentire ai nostri centri di ricerca di fare una ricerca pubblica importante che ci consenta di affrontare le problematiche italiane. Oggi c'è un tema, per esempio quello della xylella, che sta rischia di devastare o sta devastando una nostra agricoltura. Forse le modificazioni che potrebbero consentirci di difenderci senza usare anticrittogamici e antiparassitari. Oh, e questo, siccome è un programma che odia le ipocrisie, uno può pensarla come vuole, però intanto si ricordi che allora non dovrebbe, se teme che dentro le OGM ci sia il male assoluto, non dovrebbe più mangiare tutti i prodotti fatti con animali che si cibano di soia, mais geneticamente modificati. Praticamente smette di mangiare il made in Italy. In secondo luogo, attenzione, perché la contaminazione, mi spiega, ci spiegherà chi queste cose le studia, è abbastanza inevitabile, Guidi, cioè ci stiamo anche un po' prendendo in giro, così come si lamentano i produttori di biologico che gli insetticidi e i diserbanti che dai per le mele in Trentino arrivano anche a loro che hanno i campi vicino, allo stesso modo è difficile evitare la contaminazione, se ho ben capito. Ma oddio, da questo punto di vista sarebbe anche possibile ottenere delle filiere decisamente separate, ecco, certo secondo percentuali, diciamo così, accettabili. Teniamo conto che oggi facciamo ibridazione, cioè facciamo impollinazione con distanze di 100-150 metri in cui non c'è inquinamento genetico. Quindi è una pratica che in agricoltura già si fa. Chiaro che stiamo ad un livello di accettabilità, quindi un inquinamento al di sotto dell'1%, però cioè, stiamo parlando di una dimensione assolutamente limitata. Allora, io nel ringraziare il Presidente Confagricoltura che ci ha promesso che questo tema quantomeno lo vorranno affrontare in maniera trasparente e altrimenti chiederanno, diciamo, se ho ben capito, in maniera provocatoria le estreme conseguenze, cioè che se non si può coltivare OGM, a questo punto non si può neanche dare come mangime agli animali cibo che proviene da piantagioni OGM. Nel ringraziare Mario Guidi, saluto anche Roberto De Fez, che è ricercatore, il primo ricercatore dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli, autore tra l'altro del libro Il caso OGM. Buonasera, dottore. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Ho un minuto scarso, non ho neanche un minuto scarso, oggi deve comprendere, ma la diretta ha subito continue variazioni. Tra l'altro vi do anche un aggiornamento, le agenzie battono il fatto che è più che significativo, che i milanesi stanno già iniziando a ripulire la strada dai danni subiti da questi banditi delinquenti coi cappucci neri, black block, vabbè, chiamali come vuoi, praticamente con guanti e scope stanno già raccogliendo vetri e spazzature. Devi fare raccogliere sti qua invece con la lingua, però c'è il GR, dai, GR. Focus Economia. E 11 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mentre continueremo, speriamo di no, ma ad aggiornarvi sugli sviluppi degli incidenti che si sono verificati, uso il passato perché adesso non stanno arrivando nuove agenzie, per fortuna, di altri scontri, vorrei continuare con uno dei temi a mio avviso centrali dal punto di vista economico e quindi agricolo, in questo caso dell'Expo, e quindi il tema degli OGM. Torneremo ad affrontarlo. Io vorrei solo sapere se in un Expo che si concentra sulle possibilità di sfamare il pianeta e quindi che mangino meno il miliardo di obesi, come si ripeteva oggi, e che ci sia più cibo per il miliardo di persone che soffre la fame, faccio notare due o tre cose, così andiamo sulle provocazioni subito. È chiaro che nessuno vuole passare dalle multinazionali che controllano la chimica in agricoltura alle multinazionali che controllano i sementi in agricoltura. Altra cosa però è proibire ogni tipo di sperimentazione sugli OGM, sapendo che quando si utilizzano OGM la produzione aumenta del 22%, ma si riduce in media l'uso degli insetticidi del 37%. Ancora, per quello che riguarda la rivista britannica The Lancet, che è la Bibbia diciamo della scienza in Inghilterra, fa notare che se muoiono per malnutrizione 3 milioni e 100 mila bambini sotto i 5 anni ogni anno, bambini sotto i 5 anni morti per cause ufficialmente riconducibili agli OGM, no, allora bisognerebbe chiedere a un bambino: preferisci mangiare mais OGM o preferisci non mangiare tout court? Questa è l'alternativa. Poi le anime belle possono dire: no, dovrebbe mangiare ma biologico. Sì, come no? Certo, magari slow food. Parliamo di paesi in via di sviluppo, non facciamo sempre la sinistra al caviale, per favore. Ancora, ci sono alcuni studi che puntano il dito su una presunta tossicità per fegato e reni di alcuni OGM, in particolare un mais utilizzato da Monsanto, su cui però sono studi, oggetto di critiche anche l'impossibilità di separare le filiere di agricoltura tradizionale da quelle OGM, per cui la contaminazione risulterebbe inevitabile. Il presidente Confagricoltura quindi diceva: no, non è sempre così. E altre critiche si concentrano sul rischio di eliminare le biodiversità se si usano gli OGM. Allora io vorrei parlarne con chi queste cose le studia come ricercatore, fermo restando, ripeto, che se passerà la proibizione in Italia non solo di vietare la produzione ma anche le importazioni, qualcuno mi dovrà spiegare come sfamiamo e cibiamo i nostri allevamenti, perché più del 50%, ma chiedo conferma a Roberto De Fez, appunto primo ricercatore degli studi di bioscienze e biorisorse del CNR di Napoli. Di nuovo buonasera De Fez. Buonasera a tutti. Mi sembra più del 50% dei mangimi che diamo alle mucche, ai maiali. L'87,5% ecco, di tutti i mangimi italiani deriva da piante geneticamente modificate. Perché sono importati, giusto? Perché tutti sono importati, e questa è la follia. Cioè è vietato coltivarli in Italia, ma è permesso consumare 46 diversi tipi di organismi geneticamente modificati. Alcuni hanno già 8 differenti tipi di resistenza a erbe infestanti o a patogeni. Quindi lei mi sta dicendo che questo è il massimo dell'ipocrisia, e lì ha ragione, a mio avviso, Guidi nel provocare, dire: va bene, se non possiamo coltivarli non importiamo neanche i mangimi, a sto punto vediamo come vanno avanti le nostre fattorie e i nostri allevamenti, perché noi proibiamo ogni tipo di ricerca, proibiamo la coltivazione, però poi importiamo l'87,5% dei mangimi sono geneticamente modificati, e il prosciutto crudo, il grana padano, il parmigiano reggiano, le mozzarelle, tutto ciò che serve per cibare e sfamare i maiali, le vacche italiane, nell'87,5% dei casi è grazie a mangimi genetici che provengono da piante geneticamente modificate. Questi sono i dati, poi uno può dire che è brutto, così, perfetto, però intanto te li mangi, se no non produciamo più. Allora, dopodiché, io sono d'accordo che il rischio di consegnare, così come nel mondo della chimica i pesticidi sono in mano alle multinazionali, spesso tedesche se non ricordo male, il rischio di consegnare la proprietà di queste sementi tutte a pochissime multinazionali c'è defezza. Ecco perché mi piacerebbe che si facesse ricerca in Italia e magari si sperimentasse in Italia su produzioni che interessano in particolar modo all'Italia. Guardi, io sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e brevetto sistematicamente il mese scorso, l'ultimo, tanto per essere chiaro, sempre a nome del CNR e quindi del governo italiano in carica. Quindi diciamo esiste del tutto logicamente la possibilità di competere su questi piani e di trovare una via italiana al miglioramento genetico delle piante per gli interessi nazionali, con lo scopo di avvantaggiare le nostre produzioni, non semplicemente di scimmiottare, imitare o inseguire chimere, perché la soia non sarà mai la soia italiana, sarà la soia geneticamente modificata, che è ormai il 90% di quella che circola per il mondo. Noi abbiamo perso la partita della soia, stiamo per perdere quella del mais, e quella del mais già oggi ci costa 1 miliardo di euro spesi, anzi buttati nella spazzatura ogni anno. Ma buttati perché 1 miliardo? Mi scusi. Prendiamo 1 miliardo di euro, li buttiamo nella spazzatura perché il mais italiano è scadente, bassissima produzione, e siccome abbiamo scelto di non fare innovazione sul mais, di non andare per la strada della ricerca dell'innovazione, produciamo mais scadente a bassa resa per ettaro e invece di fare quello che fanno gli spagnoli, che hanno scelto la via degli OGM. Se avessimo scelto anche noi come gli spagnoli la via degli OGM, non importeremmo 4.5 milioni di tonnellate di mais tutti gli anni e non spenderemmo, regalandole alle filiere straniere, 1 miliardo di euro. Sono perché soldi buttate nella spazzatura. Cioè noi spendiamo 1 miliardo di euro all'anno per acquistare mais geneticamente modificato dall'estero, regalando quindi all'export di altri paesi, perché noi non possiamo produrlo, però possiamo importarlo e darlo da mangiare alle nostre mucche e ai nostri maiali. Dopodiché c'è un altro tema che non è solo quello dei pesticidi, degli insetticidi e della difesa dai parassiti delle piante, c'è anche il tema dell'impoverimento della pianta stessa. Arriviamo dopo il traffico, perché quando lei dice che il nostro mais ormai ha poca resa è perché le piante, lei lo sa molto meglio di me, a un certo momento iniziano a impoverire la loro capacità di resa, sia perché magari vengono utilizzate sempre quelle piante, quelle coltivazioni nel suolo, sia per un percorso di maggior resa, diciamo, genetica da questo punto di vista. Ne parliamo dopo il traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Allora sì, il rischio è proprio se no di consegnare tutta la ricerca e anche il monopolio alle grandi multinazionali. La Monsanto, verso cui chi vi parla non ha nessun tipo di particolare amore, viene accusata per esempio di produrre OGM capaci di resistere a un erbicida che è prodotto dalla stessa Monsanto a tutto beneficio dei conti del gruppo, cioè chi coltiva compra l'erbicida e le piante che resistono al prodotto. È chiaro che qui siamo, diciamo, non dico al monopolio ma quasi alla follia. Allora, per evitare di essere poi in mano, in balia solo delle multinazionali, in questo caso americane, occorre sperimentare noi e brevettare noi gli OGM. A che punto è la ricerca, Roberto De Fez, su questo, e quali sarebbero, diciamo, gli OGM, la sperimentazione, non ho detto l'implementazione, la sperimentazione per noi più interessante? Ma li avete già citati prima, la mela, la vite, il pomodoro, il riso del cannaroli attaccato dai funghi. Queste sarebbero le primissime cose sulle quali noi potremmo avere un'iniziativa. Questo è il problema. I nostri padri hanno fatto grandissimi investimenti in ricerca, in grandissime biotecnologie che, di cui noi ancora oggi usufruiamo. Per esempio? Noi non stiamo. Partiamo dall'infezione della fillossera che aveva distrutto la vite, certo, in tutta Europa. Se non avessimo importato la base americana, adesso non avremmo la viticoltura. Qualcuno lì ha scommesso, ha cercato di dire no, non è una follia importare dall'altro lato dell'Atlantico una pianta e mescolarla, lì veramente mescolarla alle nostre piante. Hanno scommesso su una biotecnologia e noi ne usufruiamo ancora adesso. La domanda è su cosa stiamo investendo in questo istante che sarà il beneficio delle prossime generazioni. Noi stiamo mangiando il futuro delle prossime generazioni perché non facciamo ricerca, non investiamo in innovazione, non facciamo nessuna scelta. Siamo lì fermi ad aspettare che i parassiti ci arrivino, che distruggano le nostre piante. Lei citava prima l'esempio di Xylella. Beh, Xylella è biologica. La biologia, certo, è Xylella. I parassiti si evolvono e attaccano, e diventano è resistenti. La norma, è la logica. No, ma c'è un problema molto chiaro, un po' come gli antibiotici, per usare l'esempio. I parassiti diventano resistenti ai pesticidi. Quindi cosa succede? La dico in maniera molto banale, ci mancherebbe, non sono uno scienziato, che devi usarne sempre di nuovi e sempre di più forti, no? Perché poi tu ha smesso di usare la penicillina dopo che sono emersi i batteri resistenti a penicillina. Abbiamo fatto ricerca e innovazione, abbiamo fatto canamicina, ampicillina, streptomicina e così via. Cioè si evolve la ricerca, invece noi abbiamo deciso di stare fermi ad aspettare che gli altri decidano per noi. Così poi compreremo i sementi comunque di altre multinazionali. Detto già appunto adesso, l'87,5% di tutto il mais che utilizziamo come mangime per i nostri allevamenti è importato ed è di derivazione OGM. Mettetevi il cuore in pace. Certo che c'è chi, lo vedo quando scrive, dice no, dovremmo mangiare tutti quanti la cipolla etiopea, buonissima, ma i prodotti del biologico e quant'altro, a parte il fatto che non ce n'è abbastanza e poi hanno anche un altro costo, il tema non è rinchiudersi verso vecchie forme di agricoltura, va benissimo anche il chilometro zero, basta che non lo diciamo troppo forte perché poi noi siamo dei grandi esportatori invece di prodotti del Made in Italy, quindi attenzione. Ma occorre anche fare sperimentazione su questo. Perché secondo lei c'è così tanta resistenza? Perché c'è una paura della politica a toccare questo tema, perché poi subito si va incontro al discredito dell'opinione pubblica? Ma perché diciamo noi non crediamo che gli scienziati italiani possano competere come lo hanno fatto sempre nella storia, perché noi abbiamo fatto grandissime innovazioni in agricoltura sia nel periodo fra le due guerre sia subito dopo la seconda guerra mondiale. Erano grandi esperimenti di grandi genetisti agrari quelli che ci hanno permesso prima di vincere la battaglia del grano con Strampelli fra le due guerre e poi con Gian Tommaso Scarascia Mugnozza di produrre la gran parte della pasta di grano duro che abbiamo consumato a partire dagli anni Ottanta. Noi ce la faremmo se non ci impediscono di lavorare. E poi tutta questa storia che il biologico sarebbe la soluzione, la tranquillità. Dove sono i dati? Chi ha detto che non ci sono rischi nel biologico? I 53 morti della Germania di 3 anni fa per consumo di germogli biologici, quelli non contano? Cioè quelli non sono morte, quelle centinaia di persone ricoverate con gravissimi problemi renali per il consumo di alimenti biologici. E poi mi venite a spiegare come si fa a fertilizzare il campo di agricoltura biologica? Come si fa? Beh, farine animali. Più del 50% dei fertilizzanti utilizzati in agricoltura biologica sono le farine animali scomparse dall'alimentazione zootecnica perché incolpate del problema di mucca pazza. Allora, quello non è impatto zero. Lì il drenaggio d'acqua, il consumo d'acqua per la produzione di quegli animali è enorme. Facciamoli conti seri, facciamoli conti completi. Sì, senza ipocrisie. Io ripeto, non sono né pro OGM né contro OGM, vorrei solo capire sperimentare, perché sono contro l'oscurantismo e secondo me in chi è a prescindere a priori no GM c'è dell'oscurantismo medievale. Facciamo delle sperimentazioni, vediamo quali sono i risultati, cerchiamo di capire se è più dannoso per il corpo umano beccarsi tutti i pesticidi e insetticidi che mi becco quando mangio la frutta e la verdura, oppure se è più rischioso una pianta che resiste agli insetti, quindi ha bisogno di meno pesticidi, meno insetticidi, perché però resiste perché è geneticamente modificata. Voglio solo capire, non prendere a priori una linea perché sta sulle balle gli OGM al popolo o agli intellettuali, diciamo così, ripeto, un po' sinistra al caviale delle volte, perché poi c'è il tema dei paesi ricchi, poi c'è tutto il tema dei paesi poveri, perché su questo potremmo fare un'intera puntata dei fezzi. Io vorrei sapere se tra la ciotola vuota e la ciotola col mais OGM che cosa preferisce chi muore di fame, però... E mi sembra di capire che da questo punto di vista alcuni paesi in via di sviluppo abbiano fatto scelte molto nette, Defez. Molti paesi in via di sviluppo hanno scelto la via degli OGM. Io personalmente sostengo che gli OGM oggi in commercio non servono a risolvere la fame nel mondo, perché non sono disegnati per loro, sono fatti dalle multinazionali e ci deve essere un ritorno economico. Il lavoro di aiutare i paesi in via di sviluppo è un lavoro da ricerca scientifica pubblica. Noi dobbiamo far arrivare gli scienziati dei paesi in via di sviluppo, lavorare con loro sulle loro piante che non interessano alle multinazionali: cassava, sorgo, miglio, vigna. Queste sono le piante che interessano loro, che non interessano alle multinazionali, ma è soltanto la ricerca scientifica pubblica che può aiutare a risolvere i problemi di carenza di produzione di questi paesi. Le multinazionali non possono affrontare questi, non si vede perché lo debbano fare, no, da un altro punto di vista. Beh, diciamo così, che il miglior modo per regalare alle multinazionali, in questo caso appunto che lavorano e producono GM, e regalare alle multinazionali il dominio, il monopolio delle sementi, è proprio quello di smettere noi di fare ricerca pubblica, e quindi poi loro produrranno solo quello dove hanno un interesse economico, chiaramente, e con un interesse solo per loro. Quindi se si vuole combattere il rischio di un dominio, di un oligopolio delle multinazionali, occorre fare ricerca pubblica anche sugli OGM. Vediamo se almeno questo tema l'abbiamo portato avanti oggi in una giornata molto difficile. Grazie intanto a Roberto De Fez. Noi torneremo anche su questo tema nelle prossime puntate, seguendo l'evoluzione dell'Expo. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata comunque a tutti, tranne che a quei delinquenti che hanno devastato Milano. A loro auguriamo una buona serata in galera. E noi ci risentiamo invece lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.